Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti da Giulia Crivelli, buon sabato, bentornati alla nostra rassegna stampa europea. Oggi parliamo un po' di Germania perché insomma qui a Radio 24 ne parliamo spesso, c'è la nostra Angela Merkel che viene sempre un po' criticata. Ci sono però anche giustamente chi la difende o comunque chi cerca di capire che il suo è un ruolo innanzitutto di politica interna. E allora sulla Süddeutsche Zeitung è intervenuta la nostra ministro degli esteri Emma Bonino, è stata intervistata da questo quotidiano tedesco e sostanzialmente ha detto chi in Europa, in Italia ma in Europa in generale, dà la colpa di tutto alla Germania, non solo dice il falso ma è anche ingiusto. È un'intervista, se vogliamo, anche un po' con uno scopo distensivo, perché verrà a Roma il collega della Bonino, Frank-Walter Steinmeier, e ovviamente si dovrà cercare di avere un colloquio il più fruttuoso possibile. Emma Bonino ha poi anche detto in questa intervista che è preoccupata per un possibile aumento di consensi a favore di populisti e movimenti anti-europei in vista delle politiche a cui saremo tutti chiamati a votare in maggio. E guarda caso erano poi un po' le stesse cose che aveva detto proprio il presidente tedesco a un altro quotidiano, forse lo ricorderete, settimana scorsa l'avevamo citato. Ma visto che parliamo così spesso di Germania, forse con una punta di invidia per il rigore che sanno mettere per esempio, nell'avere conti pubblici in ordine, passiamo a un altro quotidiano tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ha riportato, fatto un po' un reality check sui bilanci delle regioni. E anche qui non facciamoci del male facendo il confronto con i bilanci delle nostre regioni. Sapete che la Germania è un autentico stato federalista, nel senso che è appunto fatta di Länder, cioè di piccoli land, piccoli, non tutti piccoli, che poi hanno dei singoli parlamenti e quindi hanno un sistema di funzionamento con molte autonomie. Ecco, le cinque regioni tedesche dell'est che sono entrate nel sistema federale dopo la caduta del muro nel 1989 vanno meglio, udite udite, dei Länder occidentali, almeno per quanto riguarda l'indebitamento. Secondo un documento infatti diffuso dal Ministero delle Finanze tedesco, che è comunque, come tutti i paesi europei, tenuto a comunicare questi dati di indebitamento alle autorità europee, i cinque Länder hanno chiuso il 2013 in attivo, mentre i Länder più ricchi, quelli dell'Ovest, come il Nordrhein-Westfalia, ultimo della classe con un indebitamento di 2,5 miliardi, il Baden-Württemberg e l'Assia, si sono tutti finanziati con nuova spesa. Amburgo, la Renania-Palatinato e l'Assia sono al secondo posto per nuovo indebitamento, con totali compresi tra 500 e 600 milioni. È chiaro che qui è l'eterno dibattito tra quello che può essere una spesa, un deficit buono, cioè comunque finalizzato ad aumentare lo sviluppo, e quello che invece è un deficit cattivo, cioè spesa improduttiva. Però i dati poi possono anche essere letti in modo molto asettico, e in questo caso appunto la Germania dell'Est, che da tanti tedeschi, soprattutto negli anni subito dopo l'unificazione, è stata accusata di zavorrare l'economia dell'intera Germania, in realtà forse comincia dopo un po' di anni di integrazione a dare un attivo contributo. Ma restiamo ancora un attimo in Germania, perché può piacere o non piacere, ed è giusto anche parlare di paesi più piccoli, però è e resta la locomotiva della nostra grande Unione Europea, e quindi ci sono anche gli aspetti negativi. Pensiamo, certo, in Germania c'è una disoccupazione più bassa che in Italia, però per esempio la Saarbrücker Zeitung, che è un giornale che non citiamo spesso, più piccolo, non è un quotidiano nazionale, ha spiegato che negli ultimi 10 anni è raddoppiato il numero di persone che arrotondano lo stipendio con un secondo lavoro. Nello scorso giugno erano già più di 2,6 milioni di tedeschi che hanno bisogno di questa entrata ulteriore. Stando ai dati forniti dal governo federale, nella risposta a un'interrogazione parlamentare, attualmente è costretto a un secondo lavoro un occupato su 11, mentre pensate nel 2003, quindi 10 anni fa, la cifra era di 1 su 23. Per molti, chiaramente, lo stipendio di un solo lavoro sembra non bastare più per vivere, ha spiegato la senatrice dei Verdi, Brigitte Pottmer, che ha presentato questa interrogazione parlamentare. Passiamo alla Francia, perché la Francia è all'avanguardia su una questione ambientale su cui spesso ha cercato di avere una posizione unica anche l'Unione Europea, ma poi forse non è stata ritenuta prioritaria, e questa posizione non è mai stata espressa, è da quella dell'avorio, del traffico di avorio. Sapete, il traffico di avorio è illegale, avrete letto forse anche, mi sembra, la copertina di Internazionale di una o due settimane fa, con questa strage di elefanti, perché le zanne degli elefanti, gli elefanti vengono uccisi per poi usare soltanto le loro zanne. Ecco, la Francia, appunto, scattando in avanti rispetto a quello che potrebbe essere invece un provvedimento che quindi avrebbe ben altra forza dell'Unione Europea, si è impegnata questa settimana a distruggere i suoi stock di avorio illegale. Lo ha scritto Le Monde, sottolineando che Parigi intende dimostrare una volontà di lottare concretamente contro questo traffico internazionale che, naturalmente, come tutti i traffici illegali e internazionali e globali, è spesso o organizzato dalla criminalità organizzata, o finanzia la criminalità organizzata, o ancora peggio, nel caso dell'Africa, piccole guerre, guerriglie locali. 3 tonnellate d'avorio, sono tante, sono state distrutte in pubblico nella grande spianata degli Champs-Élysées, e c'erano anche il ministro dell'ambiente Philippe Martin e un inviato speciale del presidente Hollande. Passiamo invece alle Figaro, che è un giornale più conservatore rispetto a Le Monde, che affronta un altro tema che anche in questo caso è spesso stato affrontato da singole commissioni del Parlamento europeo, ed è quello del rapporto tra le serie televisive, l'uso un po' sconsiderato della televisione da parte di bambini troppo piccoli o adolescenti, e le performance scolastiche. Secondo Le Monde, i reality e le serie televisive fanno abbassare la media scolastica degli studenti. In questo caso lo studio è solo francese, però esistono anche degli studi fatti a livello europeo che purtroppo dimostrano, del resto credo che sia anche abbastanza intuitivo, che una visione sconsiderata della televisione, e in particolare forse di certi programmi dove non esiste neanche una sceneggiatura vera e propria, come sono spesso i reality, insomma, bene non può fare allo studio, al tempo che viene rubato allo studio, ma anche probabilmente semplicemente alla semplice capacità di usare bene, in modo più articolato, il proprio cervello, quando si è piccoli, quando si è giovani, eccetera. Passiamo invece a Financial Times, e qui è un articolo che ha avuto molte reazioni anche nei giorni successivi. È intervenuto anche, forse lo avrete letto sulla cronaca di molti giornali, il presidente della BCE Mario Draghi, perché il Chief Investment Officer di Generali, che è Nikhil Srinivasan, è intervenuto sul Financial Times sostenendo che la BCE dovrebbe acquistare azioni e non bond sovrani, naturalmente nell'ottica sempre di sostenere le economie locali o le banche locali. Questo dice Srinivasan: la BCE dovrebbe iniziare ad acquistare partecipazioni azionarie nel mercato secondario, perché il rischio, invece, continuando ad acquistare altri tipi di strumenti, è il famoso rischio deflazione, perché, come avrete letto anche qui, ma noi non vogliamo assolutamente essere catastrofisti e smorzare gli entusiasmi per i lievi segnali di ripresa che ci sono, invocando altri fantasmi. Però tra i pericoli all'orizzonte, dopo una crisi così lunga come quella che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando, c'è appunto la deflazione. Vi segnalo anche da Financial Times, una volta tanto siamo citati anche come originalità, per un'iniziativa originale, anche se l'avrete sentito anche proprio a Radio 24, sono molte le critiche a questa iniziativa. Ecco, Financial Times ha parlato diffusamente dell'iniziativa della Corte dei Conti italiana, che avrebbe intenzione di chiedere un danno a Standard & Poor's, una delle tre grandi sorelle che si prende il grande lusso, anche il grande onere, di giudicare tutti quanti, dare questi rating, società, paesi, aziende. E il danno che la Corte dei Conti chiede a Standard & Poor's per aver penalizzato l'Italia con i suoi crudelissimi ratings è di 234 miliardi di euro. Le altre due sorelle, Moody's e Fitch, non che in passato siano state particolarmente tenere con l'Italia, però il problema, probabilmente questa causa non avrà un reale futuro, il problema naturalmente è di rivedere un po' questi sistemi di rating, di renderli più trasparenti e soprattutto di capire che cosa spinge davvero queste tre società ogni tanto a cambiare anche radicalmente i loro giudizi sui paesi, sui debiti sovrani, sulle azioni. Purtroppo non abbiamo spazio per altre segnalazioni, vi auguro però un buon sabato e una buona domenica, e vi do appuntamento a sabato prossimo. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.